Ricordo un episodio rimasto molto impresso nella mia mente. Eravamo a uno dei tanti convegni e quando tra gli ospiti c'era Luigi Veronelli, si creavano degli assembramenti, soprattutto di produttori, che arrivavano per fargli assaggiare il loro vino. Aspettavano il suo parere e in qualche modo c'era sempre l'attesa di sapere quale fosse il vino migliore. Anche in quell'occasione fu così. Arrivò un contadino che gli fece assaggiare il suo vino. Io lo avevo già assaggiato e sapevo che si trattava di un vino molto difettoso, quasi acescente. Veronelli strinse il bicchiere tra le mani, come era solito fare. Lo portò al naso e mentre assaggiava chiuse gli occhi. Questo era il suo modo di accostarsi al vino, per conoscerlo. Ebbene, lo assaggiò. Silenzio. Le sue pause erano memorabili. Pause silenziose, ma dense di significato. Tutti attendevano un giudizio e lui, appoggiando il bicchiere sul tavolo, semplicemente disse: "Che bello, il vino è tutto qua." Un ricordo di Luigi Moio.